Tempo di Sport con Carlo Genta. Sarò in ritiro e come sarò in ritiro avrò la possibilità di vedere la partita, di soffrire con loro e spero al finale di ridere con loro. Eh sì, cari miei, si fa sentire anche Mourinho che accompagna l'Inter verso lo stadio, verso la finale di questo mondiale per club o Coppa d'Amicizia, come la chiamò un giorno Mancini, non so, decidete voi. Giorgio Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. Viviamo insieme questa attesa, mancano 53 minuti, ma mi ho troppa voglia di fare il countdown. Non giocherà Stankovic, avete sentito anche nel GR notizia dell'ultimo minuto, ma poi verso la partita Giovanni Capuano ci aggiornerà con le formazioni ufficiali. La vostra voce è all'800 24 00 24, un numero verde. Mourinho, appunto, in questa intervista concessa a Rai 2 a Dribbling, andati in onda oggi, ha detto tra le altre cose: vedrò l'Inter indossando una maglia, voglio che l'Inter sia campione del mondo, voglio vederla con quel logo sul petto per tutto l'anno. Abbiamo giocato 57 partite per arrivare a questa sfida e non si può sbagliare. Che voto merito da 1 a 10 per la stagione scorsa? Merito 11, ha detto Mourinho. Incominciamo a vivere questa attesa nella cucina di un genio interista come Davide Oldani. Ciao Davide. Pronto, ciao. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio. Nostalgia di Mourinho? Ma un pochettino sì. Ci vorrebbe un po' più di calore nella panchina, però aspettiamo questa sera, poi vediamo. Che sensazione ti dà nel sentire Mourinho che dice queste cose? Abbiamo giocato 57 partite, guarderò questa partita dal ritiro con la maglia dell'Inter addosso. Gliel'ha tirata Benitez oppure è sincero? No, secondo me in questo caso è sincero. Secondo me è molto sincero. Poi, tanto per il valore che ha questa Coppa, voglio dire, può fare il sincero per questa volta. Valore di questa Coppa. Mancini un giorno la chiamò Coppa dell'Amicizia. Credo di essere d'accordo anche con il vecchio Mancio. Sì? Sì, perché non, insomma, io sinceramente non so dire, non so pronunciare il nome della finalista, a parte dell'internazionale. Il Mazembe, dici? Quindi, boh, vediamo un po', giusto per dire che abbiamo vinto anche questa Coppa, diciamo che è il premio finale, no? È il premio finale di una stagione incredibile. È il premio finale e anche una buccia di banana. Perché se perdi col Seongyang, se perdi con il Mazembe squadre, che di cui fino all'altro ieri non conoscevamo l'esistenza, me compreso, che faccio questo mestiere, se perdi con queste cadi per terra e Benitez va via domani o stasera. Stessa meglio vincerla. Meglio vincerla, anche se è una coppa proprio importante. Che colpe ha Benitez, Davide? Ma secondo me quelle di non essere entrato sotto la parte psicologica dei giocatori, visto che i giocatori sono quelli, visto che i soldi comunque del presidente paga sono quelli, doveva solo entrare un po' più duro sulla parte psicologica e poi dopo tutto sarebbe venuto. Sì. Però io darei ancora qualche mese di prova. Daresti qualche mese di prova? Cosa? Quindi appoggiamo il panettone glielo facciamo mangiare e aspettiamo la colomba. Viene a mangiarlo da te al do. Ecco. Senti, magari un po' rivisitato, visto che quest'anno l'abbiamo rifatto un po' il panettone, abbiamo dato una veste nuova. Come l'hai fatto? Senza canditi e senza uvette. Ah sì? Se si può dire anche per Tre Marie, mi è scappata questa cosa. No, si dice come, è molto curioso. Senti, Ibra che sta facendo grande il Milan, ti fa arrabbiare o No, non mi fa arrabbiare, credo che Dazio l'abbia già pagato l'anno scorso, abbia già pagato tanto. Quello che lui ha fatto di negativo per l'Inter, cioè quei vari gestacci tipo Inter-Atalanta, tipo andarsene via sbattendo la porta così come ha fatto. E quindi io ero a San Siro quando lo sostituì Guardiola in Inter-Barcellona, ho visto la semifinale in Barcellona-Inter quando abbiamo vinto. Sì. Quindi lui col popolo interista ha pagato tutto. Ha pagato i conti. Adesso gli auguro di vincere tutto, ma veramente tutto però, perché la prima mossa che fu di andare a Barcellona per vincere tutto non gli abbia riuscita. No, in compenso è riuscito. Credo non abbia un sesto senso, Ibrahimovic, quindi deve solo appoggiarsi al 46 di piede che lui ha. Ti sento un po' arrabbiato col vecchio Ibra. Ti sento ancora un po' risentito col vecchio Ibra. Sì, poi devo dire che copia un po' Ibra, perché ho sentito in giro che ha fatto scrivere nel suo orologio, come usanza del nostro presidente, una data di 11 o 16 novembre 2010, sì. Milan-Inter 1-0. Sì. Era solito un'abitudine dell'Inter, del presidente, di far scrivere i successi sugli orologi che lui regalava ai giocatori. Tanto c'è un copione anche in questo. Copione anche in questo. C'è un ascoltatore che se la prende, Massimo da Lugano. Ma perché quando parlate dell'Inter sono sempre coppe di cartone? Innanzitutto lo sta dicendo un interista doc come Davide Oldani, non lo sto dicendo io, ma poi non, l'ha detto Mancini. Lo disse un giorno Mancini in Coppa d'Amicizia. No, secondo me. No, poi credo, siamo liberi di esprimere ognuno il proprio parere. No? Ma ci mancherebbe altro. Libertà assoluta. 800240024 se volete esprimere la vostra libertà anche al telefono. Io ho sotto gli occhi una tua intervista in cui tempo fa ti venne chiesto di accostare a vari giocatori un piatto, no? Te la ricordi quell'intervista? Sì, certo che sì. E non alla... so dove, su quale rivista, su quale televisione o radio, sì. Però mi ricordo. E alla domanda Antonio Cassano, la tua risposta fu Cassano, ma io sono uno serio sul lavoro, non potete chiedermi un piatto per Cassano, ingiudicabile, facciamo così, rimandiamola a settembre e proviamo con i prodotti autunnali. Vuoi provare adesso? Mi sa che a settembre è stato bocciato, aspettiamo ancora. Cassano al Milan invece... Non capisce l'importanza di quello che lui ha in mano e quindi non è sempre, rimane sempre ingiudicabile. Cassano al Milan come lo vedi comunque? Non lo so, credo che magari il Milan gli possa far bene in quanto a società molto seria, però oltre a questo non ho altri giudizi da dare su Cassano. Secondo me... Non riesco ad essere ispirato. Sì, non ti ispira. È momento di grandi suggestioni, anche il Bayern Monaco in Champions League. Vedo, sarà l'occasione per rivincere. Senti Davide, l'esclusione di Stankovic da parte di Benitez, abbiamo sentito mossa dell'ultima ora, è vero c'è il Mazembe che non sembra irresistibile, però questa esclusione di Stankovic che mi sembra uno dei giocatori più in forma dell'Inter in questo momento mi pare curiosa, con Zanetti avanzato a centrocampo, Kivu che gioca, quindi centrocampo a tre con... appunto il capitano Thiago Motta e Cambiasso e davanti Pandev, Milito ed Eto'o. Ma io non so se è una scelta tecnica, è una scelta tecnica coraggiosa e magari anche giusta, perché è meglio conservare Stankovic per il campionato o per la prossima di Coppa, se deve farlo riposare. Un'altra piccola nota, non avrei messo dentro Milito, o se credo anche Maicon ci sia dentro. Sì, certo, certo. Li avrei magari fatti riposare e tenuti per il campionato anche loro. Insomma, questa coppa proprio non ti ispira, come Cassano? Ma non tanto, anche perché gli altri giocatori dell'Inter che abbiamo, quelli che sono schierati così, possono tranquillamente farcela. Quindi questa sera Aldo, se l'Inter vince, non c'è cipolla caramellata per tutti? No, ma magari qualcosina festeggiamo, poi siamo democratici come ristorante, quindi abbiamo anche interisti, milanisti e juventini, quindi festeggeremo tutti assieme a prendere una buona bottiglia. Il primo milanista che arriva e ti chiede un piatto alla Cassano lo mandi via. Grazie Davide, buon lavoro, in bocca al lupo. Buona partita a tutti. Grazie a Davide Oldani, genio della cucina e interista. Voglio sentire la vostra voce, 800240024, poi parleremo anche di Cassano. Mourinho ne ha avute anche per Cassano, tra l'altro, parole molto positive in questo caso. Per Cassano, dolcissime per Ibrahimovic in questa intervista a Dribbling. Cassano, come sapete, è stato attapirato da Staffelli ieri. Insomma, sarei anche curioso di sentire la vostra opinione sul passaggio, ormai certo, dai, se non stiamo lì a... Come hanno provato a fare per svicolare un po', a contare i dollari che devono essere versati al Real Madrid. Un accordo da questo punto di vista si troverà certamente. Cassano andrà al Milan e secondo me è un'idea che mi lascia molto perplesso questa. Penso che andrà via Ronaldinho in linea di massima, altrimenti attorno a Ibra si crea una folla di potenziali compagni d'attacco e in questo momento mi sembra che Robinho sia... abbastanza inattaccabile. 800240024, traffico poi di nuovo qui. Io per la cronaca vi do anche i risultati di Serie B con le partite che sono appena finite. Ascoli batte Regina 2-1, ma risultato particolarmente importante per gli equilibri d'alta classifica. Regina che si ferma. Atalanta che vince 1-0 con il Cittadella in trasferta. Grosseto-Crotone 2-2, Livorno-Padova 0-0, Porto Gruaro Modena 1-1, sagra del gol, giostra del gol a Sassuolo, dove Sassuolo batte 5-3 il Frosinone con 4 gol di Martinetti. Torino batte Empoli 2-1 con gol di Junco e Pelicori, per l'Empoli ha segnato Marzoratti. Varese batte Siena 1-0, quindi altro risultatone per il miracoloso Varese di questo inizio stagione. Vicenza batte Triestina 2-0, Novara 42, Atalanta 39, Siena 37, Varese 35, Torino 32. 800 24 00 24, invece il numero verde per voi, c'è anche quello per i messaggi, 349 238 6666. Massimo da Treviso, buonasera. Dottore, buonasera. Buonasera, è un piacere parlare con lei. Reciproco. L'Inter? Sta aspettando l'Inter? Io sono interista, però sono anche un addetto ai lavori, quindi sì, non mi posso sbilanciare più di tanto, perché lavoro anche per una squadra di Serie A, quindi però, insomma, sì, sto aspettando l'Inter. Però il mio intervento... Aspetti un attimo. Non voglio chiedergli l'identità, lei fa l'ascoltatore, mi va bene così, quindi non voglio rovinarle i piani, però... Questa coppa quanto vale? Vale moltissimo, indipendentemente da contro chi giochiamo, ma vale per un insieme di cose. E anche perché ritengo che, insomma, questa squadra del Congo, sei lì, anche lei non è lì per caso. Sicuro. Sicuramente, conoscendo un po' l'Inter, io aspetto a fare i pronostici se finita la partita. Sì. Anch'io. perché insomma è una Ferrari che ha cambiato il pilota, che sta imparando a guidarla, però sta imparando, sì, ci vuole un po', ci vuole tempo. E poi sa, se dobbiamo parlare ancora un attimo di Inter, questo benedetto mister che insomma cercano anche di giustificarlo perché ha tanti infortunati, ma li sta allenando lui, però non è che li stia allenando io. Sì. Sì, e allora dopo 20 infortuni, magari più o meno anche sulla stessa parte del muscolo, è insomma, santo Dio, rivediti un attimo. No, certamente, non si può dire, non si può dire si è sfigati, punto e basta, e allora cosa dobbiamo fare? Ma poi, guardi, io insomma, nello sport in generale, quelli che si aggrappano troppo agli infortuni mi piacciono poco, perché mi sa sempre di cacciatore di alibi, questo a prescindere da Benitez, tutti quanti, Poi è chiaro che non avere certi giocatori, ma è quasi inutile dirlo, no? è fatalmente penalizzante. Però da un lato c'è chi deve allenare quei muscoli e che magari ha sbagliato qualcosa, dall'altro lato ci sono altri giocatori, e se una squadra è una grande squadra riesce a sopperire anche agli infortuni. Certamente, assolutamente, oneri e onori, siccome bravo, non prendono pochi soldi, bravo, e quindi oneri e onori, cioè bravo, rispondi in tutti i sensi, nel bene e nel male, altrimenti è troppo facile, vado a allenare anch'io l'Inter, magari. Ma voleva parlare di altro lei, secondo me. Un altro attimo. Parliamo tanto di educazione nei campi sportivi, ovviamente, atteggiamenti e cose di questo genere. Quello trovo, dottore, che questo benedetto Cassano, che ormai ha 30 anni, continua a fare le cassanate, e come castigo dalla Roma vai al Real Madrid, Real Madrid per castigo vai alla Sampdoria, continui a comportarti male e come castigo vai al Milan 3 milioni all'anno. Allora ai giovani noi che cosa spieghiamo? Ai giovani spieghiamo che Cassano, se non facesse cattivo, ne guadagnerebbe magari molti di più e sarebbe già forse uno dei primi 3 giocatori del mondo, mentre è uno che sta cestinando il suo talento, secondo me. Anche questo passaggio al Milan, cosa che di cui mi sfugge il senso, perché il Milan di giocatori così ne ha tanti. Appunto. Immagino Cassano che gioca in Coppa Italia o l'ultimo quarto d'ora delle partite, per un mese magari fa il bravo, poi vediamo. Poi vediamo, o no? Sono d'accordissimo con lei. Ma io credo che, non so, il dottor Gagliani, persone che sono esperte, sono nel calcio da una vita, questo quesito è possibile che non se lo pongano? O fanno sempre solamente per la piazza, per la platea? Perché insomma, non credo che a 30 anni questo benedetto giocatore possa cambiare. Eppure si cerca sempre, io quando sbaglio pago, però evidentemente... Sì, però guardi, alla fine paga anche lui, è chiaro, sì, che è un bel vivere così, no? Da 5 passa a 3, metà dello stipendio, eccetera, eccetera, sono sempre un mucchio di soldi, però è un giocatore che se avesse avuto una testa un po' meno ricamata, una testa un po' diversa, avrebbe guadagnato molto di più e avrebbe vinto molto di più e sarebbe stato un giocatore enormemente più grande. Quindi credo che la punizione sia in reipsa, ecco, se vogliamo metterla così. Massimo, la ringrazio, torni a trovarmi quando vuole. Grazie, molto gentile, buonasera. 00240024, ho letto prima quell'SMS che arrivava da Lugano. Ma quando parlate dell'Inter le coppe sono sempre di cartone, domandava Massimo, che adesso ha anche chiamato. Buonasera, mi fa piacere. Sì, buonasera, ciao. Buonasera, ciao Massimo. Ciao, niente, io sì, volevo dire questa cosa e poi ne volevo dire un'altra, questa ormai è abbastanza risaputa. Sì. Cioè, nel senso che quando mi ha vinto gli scudetti ci hanno detto che non valevano niente, effettivamente avevamo poca concorrenza. Quando vincevamo le Coppe Italia non contava niente la Coppa Italia, ne abbiamo vinte un po'. E dopo hanno cominciato le squadre grandi a essere più interessate anche alla Coppa Italia, le finali erano sempre Inter-Roma, eccetera, eccetera. Poi dopo, forse l'unica cosa è la Coppa dei Campioni dell'anno scorso, che si sono interessati un po' tutti, è sembrata veramente una Coppa dei Campioni importante, perché in qualche modo siamo riusciti a battere Chelsea, siamo riusciti a battere Barcellona. Però, voglio dire, alla fine poi ci hanno rinfacciato il fatto che era una squadra, intanto che avevamo avuto qualche aiuto arbitrale. Ah, questo da, tutti Massimo, questo da respingere, questa osservazione, ma l'abbiamo già fatto un sacco di volte, da respingere al mittente, perché quando arrivi a un risultato così grande, qualche episodio favorevole ce lo devi aver avuto, ma che sia esso un fischio mancato, un fischio a favore, che sia esso un gol, come è stato per il Barcellona, l'abbiamo ricordato con quel gol di Iniesta al 97esimo, voglio dire, se no il Barcellona era fuori, quindi un soffio della fortuna ci vuole, è fatale questo. E poi dopo chiaramente il solito discorso che l'Inter ha solo giocatori stranieri, eccetera, eccetera, e che quindi non ci si riconosce in questa Coppa vinta dall'Inter. Vabbè, questo è un discorso un pochino così. L'altro discorso che volevo fare io è questo, che sarà anche un discorso abbastanza ingenuo, però a livello di valori, quando si fa una Coppa intercontinentale, io non conosco i tempi della Coppa che si svolge oltreoceano, però onestamente bisognerebbe farla con i valori in campo di quando si è vinto una Coppa dei Campioni. In questo caso lo facciamo un anno dopo, con un Inter che è, tra virgolette, un po' funestata dai problemi di infortuni, oppure anche di qualcosa di spogliatoio che forse non si capisce ancora bene. Sì. E abbiamo di fronte delle squadre, dovevamo avere di fronte il Porto Alegre, però abbiamo una squadra diciamo del Congo che comunque alla fine li ha battuti, voglio dire. Alla fine stasera giocheremo con una squadra che i milanisti sicuramente, anche gli juventini diranno che è una squadra scarsissima, ma bisogna vedere, c'è anche il rischio che magari riusciamo a fare una brutta figura, non è detto, insomma. Sì, è una partita in cui c'è molto da perdere, indubbiamente l'Inter ha molto da perdere, no? Ha da guadagnare questa Coppa che continua a considerare prestigiosa, anche se questa formula del mondialito a me francamente non piace. È chiaro che è qualcosa di estremamente simbolico, perché mentre la Champions League è il prodotto di un torneo che alla fine è perfetto, no? Se si riesce ad alzare quella coppa, questa non è il prodotto di nulla, è semplicemente una partita e una coppa estremamente simbolica. L'importanza sta nel simbolo, in quello che Mourinho vuole vedere sulla sua vecchia maglia e basta. È chiaro che è anche una buccia di banana, come dicevo prima con Davide Oldani, perché se perdi con il Mazembe, allora te la regalo, te lo regalo il Natale interista, no? Succede che Benitez viene mandato via e su questo ho pochi dubbi, succedono un sacco di cose e dunque ecco che la partita di oggi diventa enormemente importante per tanti motivi che non sono tutti legati a quella coppa, insomma. Massimo, volevo chiederti solo una cosa e poi ti lascio. Non credi allora in un prolungamento, tanto ormai il campionato è talmente lungo, mondiali permettendo, per fare anche questa finale intercontinentale nel momento giusto? Ma questo torneo è storicamente collocato lì, è collocato a dicembre, anche perché, se non ricordo male, la Coppa d'Africa, questo discorso che fai tu vale per le africane, perché se non ricordo male la Coppa d'Africa è finita a metà novembre, quindi per le africane la collocazione del torneo è tempestiva. Per vari motivi di calendario è storicamente piazzata a dicembre. È chiaro che, insomma, rientra, è tutto un discorso che rientra nella simbologia di questa coppa. Ripeto, coppa estremamente simbolica, quindi non è neanche così necessario cercare ragioni di contiguità con la squadra precedente. Dunque facciamo Michele da provincia di Bologna e poi ci aggiorniamo dopo una breve pausa. Michele, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Niente, volevo intervenire sul caso Cassano. Sì. Ecco, per quanto riguarda il passaggio al Milan, io ci ho sperato fino alla fine che passasse al Napoli, perché sì, molte voci lo davano per addirittura addirittura d'arrivo, che De Laurentiis era innamorato di questo calciatore. Noi tifosi napoletani esigenti ovviamente speravamo in questo regalo di Natale, invece sì. Ieri sera ho sentito che è addirittura d'arrivo a Milano. Beh sì, andrà al Milan e non ho nessun dubbio su questo. Nel Napoli di Mazzarri, che sta andando così bene, Cassano rischiava di essere la carta che faceva cadere il castello. Dove lo mette Cassano in questo Napoli? Ma guardi, io lo vedrei molto bene insieme a Lavezzi, un tridente formato da Lavezzi, Cassano e Cavani prima punta, e farei arretrare Hamsik sulla mediana. E solo così secondo me potevamo competere, perché al di là di tutto quello che stiamo facendo, sì, Mazzarri è un grande, stiamo dando tanto in Europa League e in campionato, ma cioè, come tutti sapranno, sicuramente il Napoli non può tenere il passo delle grandi, perché comunque è una rosa non competitiva per affrontare competizioni. Sì, ecco. Non competitiva e probabilmente un po' corta per correre per lo scudetto, discorso che vale anche per la Lazio, in questo sono d'accordo. Io penso che insomma un tridente come quello che lei ha citato sarebbe molto difficile dal punto di vista di quegli equilibri che sono così cari a Mazzarri. Certamente Cassano è un giocatore che è fatto su misura per Napoli, ma sono discorsi che sono già rimbalzati diverse volte in passato. Poi Cassano da Napoli non è mai transitato, adesso andrà al Milan. Non so quanto ci resterà, secondo me non tantissimo, ma è una sensazione soltanto mia. 800240024, dopo questa pausa torniamo insieme. C'è un ascoltatore, Fede, che manda un messaggio: ma perché questa coppa sarebbe simbolica? Le vincitrici dei tornei continentali si scontrano come altro dovrebbe essere. È simbolica perché non è, a mio parere, il prodotto di un torneo, come uno scudetto, come una Champions League naturalmente, ma è una partita giocata, per ragioni che si dicevano prima con l'ascoltatore che ha chiamato da Lugano, nella stagione successiva da una squadra che non è chiaramente più quella che ha vinto la Champions League per tante ragioni. Anche il Mazembe ha il suo Mourinho, si chiama Diego Garzitto, allenatore italo-francese corso, che ha lanciato il Mazembe verso la conquista della Coppa d'Africa e poi è andato ad allenare da un'altra parte. Buon pomeriggio. Buongiorno, adesso allena il Wydad a Casablanca. Come la vive? Sono a Casablanca. Come la vive lei questa finale? Mourinho oggi ha detto che la vivrà dal ritiro del Real Madrid con la maglia dell'Inter addosso. Lei come la vive? La stessa cosa per me, con la maglia bianca e nera. Sono tre mesi che era Lubumbashi, era ancora là, sono miei giocatori. Per me è difficile, anche se sono italiano, di tifare per l'Inter. La capisco perfettamente, perché squadre con cui si vivono certe avventure restano dentro. Vale per Mourinho e per l'Inter, ma penso possa valere anche per lei. Sì, è la stessa cosa. Abbiamo letto in questi giorni che è un club molto ricco il Mazembe, per il calcio africano naturalmente, che i giocatori sono pagati molto bene, che si lavora in modo molto professionale, è così? Allora, sono abbastanza bene pagati, ma pagati sono $5,000, non sono tanti soldi, sono soldi tanti per l'Africa, ma per l'Europa non c'è niente, Certo. C'è poco e niente. Per il professionista che siamo, non c'è niente là, non c'è niente per lavorare. Ho lavorato un anno o due anni su un pezzo di terra, non ci c'è un campo, non c'è niente. Sì, quindi è quasi miracoloso essere arrivati lì, no? Sì, è un miracolo, perché abbiamo tanto lavorato, ma abbiamo lavorato su piccole, come si dice, distanze, no? E dopo abbiamo vinto l'anno scorso, i miei giocatori hanno vinto anche la Coppa d'Africa dai, sì. Loco, la Chan, sì, e hanno preso un po' di maturità e oggi con tre giocatori di più dell'anno scorso pensiamo tutti che era possibile andare lontano, vincere questa Coppa di Champions League e andare lontano in Coppa del Mondo, e lo fanno bene. Dove può far male all'Inter questa, la sua ex squadra? Se non fanno attenzione, sono i due attaccanti che sono buoni. Il numero 15 è tanto forte, è imprevisibile. E il 15, l'11, scusa, è un buon giocatore. Lui l'anno scorso ha segnato 7 gol in Champions League e ha fatto 6 o 7 assist. È un grande giocatore, allora devi fare attenti ai due giocatori davanti. L'11 si chiama Kabangu e il 15 si chiama Kalui Tuka. Quindi occhio, sorvegliati speciali questi due. Le chiedo ancora questo, mister, le chiedo ancora questo. Saprà che Benitez oggi rischia la panchina, insomma. Arrivare dopo uno come Mourinho non è un grande affare, no? Sì, è difficile. Cosa ne pensa di questo, di questa situazione? Il poveretto, hanno tutto vinto l'anno scorso e quando si riprende una squadra così si deve sempre vincere. È difficile i 2-3 mesi per mettersi a posto e penso che in gennaio o febbraio l'Inter torni bene. Sì, prima di lasciarla andare ad infilare la maglietta del Mazembe, come stanno andando le cose lì dove adesso? Al Wydad, a Casablanca? Siamo terzi perché abbiamo perso due partite in tre giorni qua, perché ho tanti ammalati, come sì, si dice, e ammoniti. Penso che quest'anno potremmo prendere il campionato. Voilà. In bocca al lupo! In bocca al lupo e grazie per la sua disponibilità. Diego Garzetto, come avete sentito, tutto il mondo del paese ha un sacco di ammalati, quindi credo di infortunati anche lui, sebbene lì ci siano crimini un po' meno rigidi i nostri. Giovanni da Milano, buonasera. Sì, buonasera, io volevo solo dire una cosa, perché ho sentito dire che in realtà per l'Inter è una partita difficile stasera e secondo me, dopo direi che la squadra che ha vinto la Champions, ha vinto tre coppe l'anno scorso, si presenta come evidentemente la favorita, quindi sì, certo. Beh, non ci sono grossi dubbi, no, su questo. Rispetto a una squadra che non è nota, e quindi via che è un avversario forte, mi sembra molto. No, è una squadra. Beh, quelli che vincono la Coppa d'Africa non saranno così scarsi, non saranno. Certamente è una squadra molto atletica, è una squadra di grandi atleti, questo certamente. Quindi, da questo punto di vista, in partita secca, per quest'Inter aggiungerei che atleticamente non mi sembra poi così brillante, sto usando un sacco di eufemismi, mi sembra una partita, insomma, quantomeno insidiosa, una buccia di banana, sì. Poi sul fatto che l'Inter sia favorita, chi lo discute questo? Mi sembra se l'Inter scivola contro questa squadra, mi sembra evidente che non possa avere ambizioni per questo campionato. Questo è il concetto che vorrei ribadire. Ma se, guardi, una buccia di banana, sì, però se si scivola qua, allora si può fermare. E se si scivola qua, si ferma senz'altro Benitez. Poi l'Inter non lo so, si ferma senz'altro Benitez se si scivola qui. Poi siamo sempre lì. È una partita secca che arriva molti mesi dopo la vittoria in Champions League in situazioni profondamente diverse. È un torneo in cui c'è tutto da perdere, pochissimo da guadagnare, perché si rischia indubbiamente la faccia, nel caso di Benitez, anche la panchina. Dunque tant'è. Certamente questo Mazembe, campione d'Africa, è una squadra, ripeto, di grande atletica, a quest'Inter può dare fastidio. Sui 90 minuti a giocassero 8 volte sarebbe un discorso diverso, ma insomma stiamo scoprendo l'acqua calda, le partite secche sono così. Altro? Sì, volevo aggiungere su Cassano una cosa veloce, perché ho sentito dire che in realtà al Milan non serve. Io sono milanista, premetto. Sì. E mi ricorda quello che si diceva su Robinho quest'estate. E poi il Milan ha dimostrato di essere però in classifica, quindi fatti hanno dato ragione poi all'acquisto di Robinho. Quindi sì, sembra che stia facendo un problema su Cassano che non esiste. No, ma per carità, Cassano può essere a prescindere utile a qualunque squadra, no? E anche qui sto dicendo una banalità. Però con Robinho che sta giocando a questi livelli, se non verrà venduto Ronaldinho, Pato prima o poi tornerà, insomma abbiamo tre mezze punte che, o seconde punte che hanno tutti i diritti legati in regola per pretendere un posto e che non ce l'avranno, almeno in due casi su tre. Di conseguenza secondo me non si può dire Cassano va a colmare, come ha detto Gagliani, va a colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Inzaghi, perché non è così. Il Milan aveva bisogno di un attaccante di scorta, una prima punta vera nel caso in cui a Ibrahimovic un giorno o l'altro fosse venuto il raffreddore. Non può essere Cassano, che è un giocatore che andrà lì con avanzando qualche pretesa sull'impiego, io immagino, perché non penso voglio andare al Milan a fare tappezzeria in panchina. Traffico. Michele Criscitiello da Calcio Mercato Sport Italia. Ciao Michele. Ciao, buonasera, ben ritrovati. Avrai visto Cassano attapirato, immagino. Assolutamente, l'abbiamo visto, ma questa volta mi sembrava poco attapirato, per dire la verità. Poco attapirato, ha detto queste cose. Abbiamo visto come si è risolta la situazione con la Sampdoria. Ho preso una bella tramvata, Santo cielo. Un po' di soldini ho perso, però bene. Però devo dire una cosa. Con le ultime notizie, con lei che sembrerebbe in passaggio verso il Milan, questo tapiro alleggia nell'area, perché uno pensa, ma sarà tapirato oppure no il signor Cassano per questa evoluzione? Ma per l'evoluzione non lo so, per quello che è successo molto probabilmente, vediamo quello che succederà. Ma lei sarà contento, insomma, se dovesse poi passare al Milan? Chi non accetterebbe il Milan, che insieme al Real Madrid sono le due squadre più grandi della storia? Le due squadre più grandi della storia, Michele, già calato perfettamente dentro a quella maglietta che ha accettato con piacere, eh? Assolutamente, ha accettato con piacere, ma io penso che questa volta sia davvero l'ultima chance nella vita, sì, non nella carriera per Antonio Cassano, perché lui riconquista una grande dopo aver comunque fallito al Real Madrid. È ritornato in Italia, è stato dato una seconda chance in nazionale con Cesare Prandelli, lascia la Sampdoria a testa, perché ancora una volta ha dimostrato di non essere cresciuto e ha 28 anni, si è sposato, perso il bambino, adesso penso che sia giunta l'ora della maturità, ritorna nel calcio che conta con una delle squadre più blasonate d'Europa, con il club più titolato al mondo, come giustamente ha sottolineato Antonio Cassano, o questa volta o mai più. Io penso che debba capire Cassano che andare al Milan significa la chance, ma soprattutto l'ultima opportunità che gli viene rappresentata. Per quanto riguarda invece i termini di prestito, manca davvero poco, una manciata di milioni di euro, l'accordo tra Milan e Real Madrid è stato raggiunto proprio da poche ore, quindi Cassano vestirà la maglia rossonera già dal prossimo 6 gennaio ed è quello che voleva il calciatore, la Sampdoria, il Milan e l'agente del calciatore Beppe Bot, tutti felici e contenti. Bisogna vedere se lo volevano anche Ronaldinho, Pato, Robinho, che si trovano un concorrente in più, non sono tanti questi quattro? Io sinceramente penso che comunque Cassano non Cassano al Milan, Ronaldinho il suo presente ma anche il suo futuro è già segnato, via da Milano, bisogna capire se tornerà in Brasile o se andrà negli Stati Uniti. Ma subito? Pato deve pensare, prima che Cassano deve pensare a guarire, perché sì, sinceramente non capiamo e nessuno sta capendo cosa accade davvero a questo ragazzo, un po' un talento fragile, troppo fragile. Per quanto riguarda Robinho, se continua così Robinho non deve temere nulla e nessuno e quindi deve continuare su questa strada, per poi ovviamente non parlare di Ibrahimovic, altro ruolo, altra categoria, altro mondo. Altro mondo, altro pianeta. ma Ronaldinho via subito, a gennaio? A questo punto sì, se 10 giorni fa ti dicevo probabilmente a giugno andava in scadenza di contratto, questa volta dopo le dichiarazioni anche del fratello Roberto di Assis si trova una soluzione per l'immediato, anche perché non dimentichiamoci che a fine gennaio riaprirà il mercato in Brasile, è sempre aperto, ma ripartirà il Brasileirao e a questo punto se qualcuno lo vuole in Brasile deve prenderlo da subito, da inizio Brasileirao e non a metà e quindi a stagione in corso. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti il discorso sarebbe un po' diverso, però in questo momento c'è il Brasile in vantaggio sugli Stati Uniti. Sì, ti faccio notare solo una cosa prima di salutarti, caro Michele, se tra un paio di orette, se le cose non vanno come devono andare, dovrai lavorare duro sul fronte panchina dell'Inter. Auguriamoci che le cose vadano bene per l'Inter. Per quanto riguarda invece lavorare duro su un eventuale nome da sostituire a Rafa Benitez, non penso che ovviamente con il Mazembe, con tutto il rispetto, bisogna dire sempre la partita secca, è una finale, le finali vanno giocate, però se l'Inter torna a casa senza la Coppa dopo aver affrontato il Seongnam, i coreani e gli africani del Mazembe, allora significa davvero che l'Inter deve ridimensionare i propri progetti. Per quanto riguarda eventuali sostituti di Benitez, più che la partita di questa sera, Benitez dovrebbe preoccuparsi del campionato e della Champions League. Grazie Michele, buon lavoro. A voi, buon lavoro. Un abbraccio Michele Criscitiello. E chiudiamo con Giovanni Capuano che ci dice tutto su, sull'Inter che sta per andare in campo. Dunque, Stankovic, ciao Giovanni. Ciao Carlo. Stankovic confermato non c'è. Stankovic confermato non c'è, è stato spedito in panchina, un po' a sorpresa perché è uno degli uomini più in forma e lo aveva dimostrato anche contro i coreani nella semifinale. C'è anche qualche incertezza legata al modulo, perché ben difficilmente dall'inizio vedremo il 4-2-3-1 di stampo murignano e che avevamo visto anche contro i coreani. Dovrebbe essere un 4-3-3, adesso te lo vado a leggere, ci sarà Giulio Cesare in porta, Maicon, Lucio, Cordoba e Kivu sulla linea difensiva, e queste sono le certezze. Poi a centrocampo ci sono Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta e poi davanti Pandev e Tomilito. Dovrebbero partire con un 4-3-3, in realtà da osservare subito la posizione di Eto'o, perché potrebbe scivolare un po' più indietro in un 4-4-2 per cercare di evitare un'inferiorità numerica contro un avversario che a metà campo ne schiera 5 di giocatori, sì, che è molto forte fisicamente, resistente, veloce, poco tecnico, e allora forse Benitez ha preferito evitare quella che potrebbe essere l'unica trappola che gli riserva questo Mazembe, quindi una forte inferiorità a centrocampo e, sì, e cercare di mettere un uomo in più. Sì, però togliere Stankovic che comunque, anche a guardare la partita dell'altro giorno, giocata in modo splendido, sembra uno dei più in condizione dell'Inter, non è rischioso? Io condivido perfettamente questa lettura, non ci sono problemi fisici in questo caso, almeno non pare esserci un problema fisico. Probabilmente Benitez ha fatto il ragionamento che ti facevo prima, anche perché il Mazembe effettivamente gioca cercando di tenere più uomini possibili sulla linea della mediana. Anche l'attaccante, il numero 15, è un giocatore che comunque va spesso a fare pressing sui portatori di palla, quindi probabilmente fidandosi poco delle condizioni di forma di Thiago Motta, di Maicon che rientra ed è fuori da 6 settimane, alla fine ha scelto di tenere fuori un altro di quelli che in questo periodo comunque ha messo pochi minuti nelle gambe, che è Stankovic. Io credo che quasi certamente lo vedremo poi a partita in corso, sì, e probabilmente farà staffetta con lo stesso Thiago Motta, però insomma la scelta dal primo minuto è quella di tenerlo fuori. Attenzione, come diceva prima l'ex allenatore del Mazembe, Diego Garzitto, circoletto rosso intorno a questo numero 15, Kalui Tuka, e al numero 11, Kabungu, che Garzitto, che riconosce bene, diceva sono le punte di diamante. E tu dicevi un po' più indietro, oggi ho letto con attenzione l'intervista di Eto'o, la lunga intervista di Eto'o sulla Gazzetta dello Sport, ha detto: per questa Coppa e per alzare la Coppa sono disposto, poi però Benitez sa che io voglio segnare. Sì, ma guarda che le due partite giocate da Abu Dhabi, quella con i coreani e quella di questa sera, in realtà rappresentano un po' una parentesi nella stagione dell'Inter, e questo vale anche poi per quello che sarà il destino di Benitez. Io credo che tornando a casa questa notte, a proposito, l'Inter dovrebbe rientrare domani all'aeroporto della Malpensa intorno alle 5 della mattina, tornando domani mattina alla Malpensa con la Coppa del Mondo, con la Coppa Intercontinentale, certamente Benitez si sarà riguadagnato eventualmente la possibilità di ricominciare a gennaio da allenatore dell'Inter, però è del tutto evidente che sarà poi lì che dovrà giocarsi, con al di là dei risultati, anche con scelte convincenti, certo, perché anche la scelta ad esempio di Stankovic di questa sera, calato in un altro contesto, potrebbe essere una di quelle scelte che poi Moratti, che è molto attento a certi equilibri e anche molto legato a certi, sì, personaggi, sì, all'interno della rosa, poi potrebbe rinfacciarli. Io, se, certo, vuoi, però vorrei aggiungerti Giovanni, purtroppo non abbiamo mica tempo, perché sennò non rispetto gli orari. Kimwaki, attenzione, Giovanni Capuano ci racconterà questa partita nei GR della sera. Grazie Giorgio Luca per il lavoro in redazione, Paolo Corleone in regia. Poi domani abbiamo tutto il tempo per parlare dell'Inter, di Cassano, eccetera, dalle 4:30 alle 7. Vi aspetto.